America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington. Mario Platero. This morning a gunman in Orlando shot and killed five people at the company where he used to work. He was fired back in April. That's according to the sheriff in Orange County, where Orlando is. Ecco, avete sentito il newscast, sparatoria a Orlando, nella filiale dell'italiana Fiamma, sei morti, incluso il killer, ancora una strage negli Stati Uniti, ancora ad Orlando, in Florida, dove il 12 giugno scorso Omar Mateen, un americano di origine afghane, uccise 49 persone durante l'attentato al Pulse, un locale gay. Per fortuna l'attacco di ieri non era un atto terroristico, è stato l'atto di un folle che si drogava, John Newman, che uccide per vendicarsi del suo licenziamento. Poi però le conseguenze dell'atto sono le stesse. Saudi Arabia, Bahrain, Egypt and the UAE have all cut diplomatic ties. What's behind this diplomatic rift? Ecco, sempre sul fronte terrorismo, avete sentito di nuovo il newscast, il Qatar isolato, a rischio la coalizione araba voluta da Trump, la cosiddetta NATO araba, e sono emerse su questo fronte le prime crepe, insomma, incertezza globale dovunque. Io mi trovo qui a Washington proprio per partecipare a una conferenza dell'Aspen Institute, Aspen Institute Italia, che ha organizzato questo evento con l'ambasciata d'Italia a Washington. Dunque hanno aperto i lavori l'ambasciatore Armando Varrico, il presidente dell'Aspen Giulio Tremonti, titolo molto interessante, Stati Uniti e Europa nell'era dell'incertezza. Io con me ai microfoni di America 24, proprio per parlare di questa tematica, qui a Washington, Giampiero Massolo, che partecipa a questa conferenza dell'Aspen Institute. L'ambasciatore Giampiero Massolo è il presidente di Fincantieri, che ha investimenti importanti qua in America, è stato il direttore generale della Farnesina e il presidente dell'ISPI, ma soprattutto è stato anche il direttore del Dipartimento Informazioni per la sicurezza, e dunque di antiterrorismo credo se ne dovesse occupare ogni giorno. È vero, ambasciatore? Buongiorno. Buongiorno. Certamente questi sono temi che sono prioritari per quanto riguarda l'azione di prevenzione. L'intelligence si occupa di prevenire, per quanto riguarda poi anche la collaborazione fra intelligence e le forze di polizia, e dunque per quanto concerne il controllo del territorio. Prevenzione, controllo del territorio, prontezza operativa in caso di emergenza sono un po' le chiavi di sicurezza, le chiavi attraverso le quali la sicurezza può essere assicurata. Ecco, c'è una cosa, devo dire, che disturba, perché è ovvio che è l'idea della prevenzione della sicurezza, però diciamo l'intelligence britannico conosceva l'attentatore libico che ha colpito a Manchester, l'FBI, gli americani conoscevano i fratelli Zermanov che hanno attaccato a Boston, e dunque c'erano queste informazioni, eppure non siamo riusciti a usare le nostre leggi per poter controllare queste persone e prevenire che facessero dei crimini. Vede, io dico sempre che quando in Italia avevamo il nostro terrorismo nazionale, noi battemmo il terrorismo senza ricorrere a nemmeno una legge eccezionale. E lo battemmo attraverso una forte mobilitazione di tutta la società civile, che è la stessa che auspico in tutta la comunità internazionale. Detto questo, e quindi fatta in qualche modo giustizia di un perimetro giuridico che mi sembra, ove usato con sagacia, bastevole, va detto che la sicurezza assoluta non esiste, cioè non è possibile tirare una sorta di saracinesca d'acciaio e pensare di essere assolutamente sicuri. C'è da dire che oggettivamente è vero che spesso si conosce, si hanno delle informazioni su persone. Detto questo, è materialmente impossibile seguire materialmente tutti e assistere alle evoluzioni di tutti. Di nuovo diventa un problema di casistica, diventa un problema di collaborazione fra forze dell'ordine e cittadini. E soprattutto è molto difficile interpretare segnali che spesso non vengono per anni fra quando una persona si radicalizza e quando invece poi colpisce. Ecco, visto che la casualità prevale, che consigli può dare alle persone di essere alert, E che consigli può dare al nostro Parlamento se dovesse passare qualche legge per serrare i bulloni? Intanto anche nel caso della mafia non si è trattato né di leggi né di tribunali speciali, ma si è trattato di un'applicazione rigorosa di norme mirate a singole fattispecie delittuose, ad esempio le leggi sul pentitismo, sull'incentivazione dei pentiti, e quindi non di legislazione speciale ma di legislazione ordinaria mirata piuttosto parlerei, ed è il caso che abbiamo in questo momento. Detto questo, insomma, io continuo a ritenere che non è tanto un problema di norme che appunto ci sono, è un problema di collaborazione molto stretta tra forze di polizia e intelligence, sia a livello dei singoli paesi sia tra di loro. È un problema di far rapidamente evolvere certe difficoltà di tipo culturale. Non in tutti i paesi l'intelligence ha la stessa tradizione, non in tutti i paesi vi è osmosi operativa tra intelligence e forze di polizia, far evolvere queste difficoltà culturali che talvolta portano a lavorare a compartimenti stagni, e far comprendere bene a cittadini, aziende, istituzioni che il sistema di sicurezza è un sistema partecipato, è un sistema condiviso. Chiaramente la responsabilità maggiore ricade su chi è istituzionale preposto a fornire sicurezza, ma non esiste un fornitore e dei fruitori e basta, esiste un fornitore principale ed esiste anche la collaborazione da parte dei fruitori, e questo è un concetto sul quale credo occorra insistere. E dunque il consiglio di fondo invece alle persone normali che nel giorno per giorno possono preoccuparsi è quello, qual è? Quello di vivere la vita nella normalità. È quello di vivere la vita nella normalità per non fare il gioco del nemico, per così dire, però è anche farlo con una consapevolezza di evitare situazioni pericolose, di evitare di essere, diciamo, coinvolti proprio malgrado, di evitare di non notare dei dettagli che magari possono essere utili a chi assicura l'ordine pubblico, di evitare poi comportamenti sconsiderati nel momento in cui le situazioni di emergenza si verificano senza collegamento con le forze dell'ordine. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, sempre da Washington con l'ambasciatore. Ma solo, ambasciatore, cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori? Proporrei due cose. We Are The World, perché credo che il mondo sia tale che nessuno di noi può dire scendo, ma tutti noi dobbiamo starci al meglio, con maggiore consapevolezza e più uniti. E poi un esempio, l'esempio del concerto di Ariana Grande che si rifà a Manchester, malgrado tutto e contro tutti. Manchester che resiste dunque con Ariana Grande e We Are The World. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. We are the world, we are the children. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!